9 in punto, la versione di Oscar. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, buongiorno caro ascoltatore, stamattina vi ho fatto sentire ancora un pochino di più le nostre due misture musicali che, perché? Perché naturalmente lo avete visto che vi dicevano sulla crescita del PIL una versione edulcorata. Questo è un punto sul quale vi invito a riflettere prima di arrivare al tema del giorno, che saranno le tasse. Ma mi ha sempre colpito come in realtà i modelli di previsione economica sono abbastanza attendibili, a dirvi la verità. Quelli sul nostro PIL e di paese in paese ci sono modelli più o meno accurati che, mettendo appunto in un modello econometrico alcuni indicatori e andamenti, riescono a prevedere con sufficiente attendibilità e con una, diciamo, un margine temporale di almeno due trimestri, tre trimestri, l'andamento successivo. Quello che non capisco mai io è perché la politica, e questo a prescindere si tratti dei centrodestra, centrosinistra, governo tecnico, deve sempre dirvi una cosa per l'altra. Per me è un mistero, perché che quest'anno Oscar Gino vi abbia detto da moltissimi mesi: guardate, stiamo andando a una decrescita più vicina al meno 3 che al meno 2, mentre invece le stime del governo rimanevano del 50% inferiori, e mentre ogni volta che l'ufficio studi di Confindustria diceva più o meno la stessa cosa che dicevamo noi, naturalmente con molta maggiore credibilità, il presidente del Consiglio Monti si inalberava, diceva: ma questi industriali italiani che ti fanno contro l'Italia, che mi mettono in difficoltà nei meeting internazionali, tutte palle. Cioè oggi guardate i giornali, siamo al meno 2,6, meno 2,6, meno 2,7. Questo è l'anno di maggior discontinuità per e con i redditi disponibili pro capite degli italiani dal secondo dopoguerra. Non vedo perché la politica debba tendere a confondervi le idee sui dati. Forse un paese nel quale cominciamo a rispettare i dati e i modelli econometrici e non a doverli rivedere al ribasso o al rialzo a seconda della convenienza di chi vi dà i numeri, forse sarebbe un paese innanzitutto più degno di rispetto per tutti. Anche perché, ripeto, la tendenza di questo governo, che, di cui molti vorrebbero la continuità, e io non sottovaluto la credibilità internazionale nel dire l'agenda Monti, l'agenda Monti, l'agenda Monti, gli italiani hanno visto le tasse aumentare subito, spesa diminuita, retrocessa, meno tasse, non l'hanno vista. Cessioni di attivi patrimoniali pubblici, non l'hanno vista. Ne mi spiegate, ma dove sta sta discontinuità? C'è una credibilità personale che non si discute rispetto al buffone Berlusconi, su questo non c'è dubbio. Ma che adesso dobbiamo arrivare a settembre, a dire la verità, agli italiani su il PIL a meno 2,6% e i consumi al meno 3,5%, quando invece era chiaro da trimestri, mentre nel frattempo li si è stangati, ecco, questo a mio giudizio è un pessimo argomento per dire che il paese dovrebbe votare e continuare a tenersi Monti tali e quali. È un argomento che non mi convincerà mai, perché sostenere che l'agenda Monti deve essere ripresa, primo, l'agenda Monti è la continuità di quella Tremonti, quindi, secondo, dire agli italiani che il loro voto non conta niente non mi sembra proprio un grande argomento. Terzo, le elezioni olandesi che si tengono domani, tra l'altro, e che potrebbero finire anch'esse in una grande coalizione. Vedremo. Comunque i giornali olandesi Volkskrant e così via, scrivono stamane che le elezioni olandesi sono state, per così dire, disinnescate, non dovrebbero avere più delle cattive sorprese, perché sapete che il Partito della Libertà di Geert Wilders era una specie di, avvertito come una minaccia populista nei confronti del progredire degli accordi europei, e sapete che il governo è saltato perché anche l'Olanda deve tagliare il deficit, se non che anche i socialisti hanno iniziato, per così dire, attutendo dall'altra parte, a sposare tesi non troppo europeiste. E quindi a questo punto potrebbe finire tra liberali e laburisti in una specie di accordo generale. Allora, questo argomento potrebbe anche in Italia sostenere gli argomenti della grande coalizione, però vedremo, perché a me, ripeto, dare agli italiani l'idea potete votare o meno, ma tanto resta tutto così com'è, è il più potente ausilio a rilanciare la lista Grillo, verso la quale ogni allargamento sui media dell'attenzione data al caso Favia, secondo me non fa venir meno il motivo per cui Grillo in 3 anni poi i voti li ha presi. Non si tratta dei contenuti del programma e così via, si tratta del fatto che si dà agli italiani stufi dei partiti, o una convinzione / illusione, per me è un'illusione, che tramite la rete tutti quanti possano partecipare. Ma detto tutto questo, sono convinto che argomenti del tipo Monti resta, tutto come prima e meglio di prima, siano il più potente stimolo alla protesta che si possa immaginare. Ma ripeto, oggi facciamo un bilancio di una delle misure che all'inizio ha sollevato meno proteste da parte dell'opinione pubblica e di voi che siete in ascolto, da parte del governo. Quando nel Salva Italia c'era la manovra immediata di giro fiscale e di aumento delle tasse, col quale il governo assunse la sua credibilità in Europa, si colpì il cosiddetto lusso e superlusso. E perché facciamo questo bilancio? Facciamo questo bilancio perché è il tema di copertina di un mensile che si chiama Capor, diretto, oltre da chi vi parla, da Bruno Dardani, il condirettore che è qui con noi. Buongiorno Dardani. Buongiorno a te, Oscar. Ecco, e Capor da questo numero, cioè da domani, è in distribuzione insieme al Sole 24 Ore nelle maggiori edicole di Roma e di Milano. Quindi questo male esiste ormai da un bel pezzo, ogni tanto ne abbiamo parlato, sapete che siamo specializzati in economia delle reti, trasporti, logistica, energia e telecomunicazioni. Però per questo primo numero, che va insieme al Sole 24 Ore, abbiamo deciso di fare un bilancio della tassa sul superlusso, e cioè della sovratassazione che fu decisa prima come tassa di stonazionamento sulle barche turistiche, poi divenne, dopo 3 mesi di incertezza, riservata ai porti italiani, visto che lo stazionamento colpiva tutti i proprietari italiani e stranieri, quindi una specie di deflusso obbligato, di invito a non venire nei porti italiani. Poi dopo 3 mesi, bontà loro, il governo la trasformò in una tassa di proprietà sulle barche superiori ai 10 metri, quindi non certo solo i super panfili, dedicata e riservata a tutti i proprietari italiani. E poi naturalmente idem dicasi per le vetture sopra i 2000 di cilindrata, poi la tassa sugli aerei e gli elicotteri privati. Allora, noi in questo numero abbiamo fatto un bilancio chiedendoci che cosa lo Stato si presupponeva di incassare e che cosa ha incassato davvero con questa tassa al superlusso, e poi per ognuno dei settori dell'economia interessati dalle barche turistiche, quindi dalla produzione delle barche nei cantieri al settore dei porti turistici, l'offerta di servizi, alberghi, ristorazione e i servizi che si offrono direttamente nei porti turistici, per quello che riguarda il settore delle barche turistiche, abbiamo fatto un esame della misura relativa alle automobili per le flotte aziendali, eccetera eccetera. E dopodiché abbiamo fatto analoga misura per l'effetto sull'economia reale interessata dai velivoli di aviotrasporto civile colpiti dalla sovratassazione. Abbiamo messo nella prima colonna il dare e avere dello Stato, quello che pensava di incassare, quello che davvero ha incassato, e dall'altra abbiamo sviluppato il danno, l'impatto reale a fronte dell'incasso dello Stato di queste misure sul totale dell'economia italiana, che era interessata ed è interessata a questi settori. Allora, comincerei chiedendo a Bruno Dardane di illustrarci il bilancio complessivo, gli incassi rispetto alle attese dello Stato e dall'altra parte, in questi tre settori, la somma della stima che ci porta ad una conclusione che da dare ai nostri ascoltatori con grande chiarezza su ciò che lo Stato cieco, promettendo demagogia fiscale, in realtà realizza moltiplicando il danno rispetto al poco che incassa su ciò che aveva dichiarato di incassare. Quali sono i numeri, Bruno Dardani? Facci capire un po'. Allora, il primo numero è l'aspettativa dello Stato dal superlusso, dalla tassazione sul superlusso era 390 milioni di euro. Ne ha incassati, ne ha fruttati 92, essere ottimisti, nel solo settore delle barche da diporto 23 milioni contro i 150 previsti. Complessivamente questo però ha generato, ecco, vorrei dare alcuni dati su quello che ha creato la tassa sul lusso. Nel solo settore da diporto si calcola 35.500 imbarcazioni da diporto che hanno abbandonato i porti italiani, che registrano un calo che va da un minimo del 20% a un massimo del 45% delle presenze. Noi abbiamo fatto una simulazione simpatica, se si può usare questo termine, trattando una materia che è diventata drammatica. 35.000 barche vogliono dire, nella migliore delle ipotesi, 650 chilometri di barche messe in fila uno dietro l'altro. Ora, considerando che secondo una stima dell'Ucina di pochi anni fa, nelle barche da turismo ogni metro di uno yacht, di una barca da turismo, equivale a 2-3 occupati, non c'è poi da stupirsi se poi il dato sull'occupazione, sull'offerta di lavoro nel settore della nautica, puramente offerta di lavoro on board e nei porti turistici, subisce un calo del 40%, il che significa un volume di circa 50.000 disoccupati quest'estate. Un 80% nel calo del valore reale dei salari, perché questi marittimi ad esempio sono costretti a imbarcarsi su barche estere che ovviamente approfittano di questo eccesso di offerta di manodopera. La sola Sardegna denuncia nei porti turistici un meno 38% dei transiti di barche nei loro porti, perché tu hai fatto una premessa sulla tassa, su cosa colpiva. Il possesso, la verità è che poi è stata applicata la tassa sul possesso in maniera estensiva in sede di controlli anche alle barche estere che transitavano in barche italiane, col risultato che queste 35.000 barche sono oggi felicemente, direi, accasate nei porti della Croazia, della Slovenia, del Montenegro, dell'Albania, di Cipro, di Malta, per non parlare di tutta la costa azzurra e della Corsica. Questo per solo il settore delle auto, delle barche. Solo per il settore delle auto un dato: la stretta sulle auto di lusso ha provocato un tracollo del valore dell'usato di circa il 60%. Oggi si compra una macchina di lusso di 3 anni fa, un SUV super potente, un Mercedes, cos'è, a 30.000 euro, e con questo si stanno arricchendo tutti i concessionari della fascia degli stati confinanti. L'effetto sull'Italia è stato 12.000 addetti persi nelle sole concessionarie di auto. Mi fermerei qua, ma la lista potrebbe essere lunga e applicabile a tutto il settore. Allora, c'è da chiedersi, la domanda finale dell'editoriale che insieme firmiamo per il numero di Capo Horn, su cui trovate domani a Roma e a Milano insieme al Sole 24 Ore, questo bilancio di fuga da lusso, c'è da chiedersi fino a quando, no? Nel nostro paese dovremmo anteporre la demagogia degli annunci e delle intenzioni, perché era evidente l'effetto di convincere i lavoratori a reddito dipendente che finalmente si mettevano nel mirino questi maiali di evasori, di lavoratori autonomi, di professionisti, commercianti, imprenditori, i parassiti del consorzio sociale, e finalmente picchia giù e di qua di là. Il risultato di quello che vi è stato gettato negli occhi, e in questo ripeto non c'è differenza da chi ha governato per colore politico, ogni volta imboccando questa strada di annunci, rispetto a questo governo tecnico, serissimo in sede internazionale e per fortuna con una serietà molto più elevata, perché di questo c'è bisogno, però c'è bisogno anche di politica capace di dirvi la verità. E quando, ripeto, si annuncia una misura come questa sulle barche a 10 metri, la sovrattassa andava e va da 800 a 25.000 euro l'anno in ragione delle dimensioni sopra i 10 metri per le barche turistiche, e e incassa 23 milioni su 155 milioni che pensava di, che vi ha dichiarato che questa misura avrebbe fruttato, e in cambio provoca il disastro nei 500 porti turistici italiani, nel settore, in chi lavora e si imbarca e lavora su queste cose, nella ristorazione, nel turismo, allontana dai porti italiani stabilmente e spinge il traffico delle barche turistiche a dirottare verso la Croazia, la Slovenia, la Francia, la Grecia, la Malta, la Spagna. Questo significa governare distruggendola l'economia, è chiaro? Non significa fare un favore ai ricchi. Al massimo, come vedete, i ricchi se ne vanno. Sono coloro che hanno meno reddito e patrimonio e che lavorano grazie a queste cose, che si trovano con il culo sui talloni. Che bella lungimirante misura, eh? Poi dite che io mi arrabbio, dice che si arrabbia troppo su questa questione delle tasse. È il metro di una politica nuova che serve all'Italia, gente capace di fare numeri veri e di farsi misurare su ciò che incassa, gente capace di non dirvi palle su ciò che ha effetto sull'economia reale quando prende una qualunque misura, perché qui si tratta di un moltiplicatore esponenziale tra ciò che lo Stato dichiarava e non ha incassato, non ha incassato, visto che si tratta di 25 su 190 92 milioni, dopodiché fare una bella misura di cosa ci sei costato, caro Stato, con le tue palle demagogiche su misure come queste. Dici, ma ti scaldi solo per il superlusso? No, è un esempio che vi faccio perché abbiamo alle spalle un mese di agosto in cui avete visto per la prima volta il turismo in alcune regioni come la Toscana, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna con cali a doppie cifre che non si erano mai viste in tutto il secondo dopoguerra. Anche grazie a queste misure che amplificano l'effetto di perdita del reddito disponibile degli italiani per via di come va l'occupazione e di come va l'economia reale in tutti gli altri settori, però anche per effetto di questa lungimirante politica di tassazione. Abbiamo con noi Roberto Perocchio, che è il presidente di Assomarinas, che è l'associazione italiana dei porti turistici e che è aderente a Ucina. Ucina è l'associazione di Confindustria che si occupa della nautica e di Federturismo. Buongiorno e grazie al presidente Perocchio. Buongiorno, grazie a voi. Allora, il bilancio iniziale, la stagione è ancora aperta e ci sono ancora settimane, ma un preabbozzo di bilancio di questa stagione estiva anche alla luce di queste misure di cui stiamo parlando oggi, quale può essere? Catastrofico, purtroppo siamo costretti a confermare tutti i dati già in vostro possesso. Non ci saremmo mai aspettati di dover assistere ad una debacle turistica di questo tipo e ritenevamo appunto che il nostro settore potesse essere solo una risorsa e un generatore di opportunità per la nostra economia. In realtà già la campagna, diciamo, di demonizzazione del 2011, accompagnata poi dall'annuncio della conferma della tassa di stazionamento, aveva provocato la fuga e, come dire, la depressione netta e immediata del nostro mercato. Abbiamo praticamente su tutti i fronti, dal punto di vista dell'occupazione dei posti stanziali, ai transiti, naturalmente le manutenzioni, le attività logistiche di assistenza si sono vanificate perché c'è stato un allontanamento dell'utenza dal concetto di vacanza in barca, dall'utilizzo della barca, quindi in sostanza una forma di vacanza sportiva, intelligente, culturalmente evoluta, che stava avendo grande successo in Italia, è stata quasi spazzata via perché appunto si è ritenuto di discriminare questa tipologia di vacanza rispetto alla vacanza in montagna, all'albergo al mare e via dicendo. Quindi i danni che abbiamo subito sono gravissimi e naturalmente ne è conseguito il blocco di tutti gli investimenti, di ampliamenti, di nuove realizzazioni. Questa è la triste realtà. Se dovessimo immaginare una specie di miracolo, cioè la politica che inizia a ragionare diversamente e chiede a voi nel vostro comparto di che cosa ci sarebbe bisogno, lei che ci direbbe? Guardi, soltanto un po' di promozione estera, perché stiamo cercando di recuperare clientela straniera, è l'unico filone di recupero che possiamo intravedere. Tutte le previsioni dei nostri colleghi per i prossimi anni sono pessimistiche. Noi abbiamo nel numero di Caporna anche un pezzo dedicato ai viaggi oltre confini, in cui c'è una specie di grande crack del turismo italiano, con 6 miliardi di stima di valore perso, anche per via del contributo portato dai dai controlli fiscali che in alcune località, quelle classiche diciamo di riferimento del segmento più alto valore aggiunto dell'offerta turistica italiana, hanno, come si è visto anche nei primi risultati relativi al mese di agosto, abbattuto la tendenza e la frequenza della clientela VIP ad andare. Ripeto, i colpiti in questo, come nel settore della cantieristica nautica, come nel settore dei porti turistici e porticciolo italiani, cioè, sono coloro che lavorano, non i ricchi. Allora, è difficile immaginare che una strategia fiscale di questo tipo non produca effetti a catena. Un paese serio dovrebbe chiedere alle misure fiscali di incorporare le stime sull'economia reale delle misure che si assumono. Nel nostro paese invece si pensa esclusivamente alle stime rispetto all'incasso, rispetto all'obiettivo del saldo di fabbisogno. Ma ripeto, anche se adottassimo questo solo criterio di contabilità pubblica, dovremmo dire che chi ha assunto questa misura è un somaro rispetto al fatto che porta a casa meno di un quarto di quello che aveva promesso, per danni che sono, rispetto a un'esponenzialità, 5, 6, 7, 8, 10 volte superiore rispetto al suo magro incasso. Abbiamo visto l'enorme divario rispetto a ciò che lo Stato puntava di incassare e alla miseria che ha incassato, e purtroppo l'effetto boomerang disastroso su comparti già molto colpiti dalla crisi, come era la nautica, i cantieri costruttori nautici, rispetto all'esodo di 35.000 barche che vengono stabilmente consegnati alle portualità degli altri paesi mediterranei, e naturalmente tutto l'indotto che generano le barche turistiche, da ristorazione, agli alberghi, l'offerta dei servizi direttamente nei porti turistici. Un settore che era previsto in crescita negli anni, che quindi andava all'aumento dell'offerta ovviamente di posti barca, e che viene invece messo in ginocchio da questa misura fiscale, il cui danno è incalcolabilmente superiore alla, del resto, misera percentuale rispetto alla previsione che lo Stato incassa. Abbiamo visto come per l'automobile questo comporti migliaia e migliaia di dipendenti in meno nelle concessionarie, e il crollo dei prezzi dell'usato, visto che tutti tendono a liberarsi a questo punto di vetture di elevata cilindrata, e idem crisi nel settore del trasporto executive. Le società, invece di essere indotte, per così dire, a mettersi insieme in pooling, magari senza dover essere proprietari ciascuno di un aeromobile, di un elicottero o di un aereo civile, ma per comprare ore destinate all'utilizzo di questi mezzi per le proprie esigenze, e l'intero settore invece a questo punto viene praticamente smobilitato, e noi abbiamo in questo settore il ridicolo di dirsi siamo arrivati a velivoli iscritti al registro inferiori di un terzo rispetto a quelli della Spagna, che pure sta in ginocchio. Quindi siamo un paese, diciamo, gli effetti della cui politica fiscale sono l'abbattimento di un vantaggio competitivo in un'economia che già oggi, scoprite, sta andando più vicino al meno 3 che al meno 2%, come da mesi vi dicevamo, e la risposta era che eravamo troppo, purtroppo, gravati da pregiudizi, come se i numeri dovessero indurre a pregiudizi invece che a una stima di quello che sono davvero. Si è aggiunto a noi Stefano Manzocchi, insegna economia internazionale, direttore del laboratorio European Economics della LUIS, e gli chiedo: questa tendenza del legislatore italiano in materia fiscale a non inglobare nelle stime delle sue misure, questa tendenza del parlamentare quando c'è un governo di fronte a non chiedergli, a non preoccuparsi di capire qual è l'impatto reale in termini di economia comparata in un contesto internazionale molto competitivo, purtroppo, come quello in cui siamo, o per fortuna, io dico per fortuna, ma quando non si ha la capacità di fare stima ex ante o di richiedere ex ante gli impatti sull'economia delle misure fiscali, si finisce per avere riproduzioni in serie di questi boomerang, come quello di cui ci stiamo occupando oggi. Ma per un paese che dovrebbe fare dell'attrattività turistica uno dei punti di forza, di resistenza, voglio dire, almeno dell'economia, vista la difficoltà che abbiamo sul resto, sul 75% del PIL destinato al mercato domestico, questo effetto boomerang è ancora più incalcolabile, come si vede dal bilancio turistico iniziale di questa stagione. Cosa si può fare, professor Manzocchi, perché la politica, le classi di dirigenti inizino a richiedere, ad adottare una capacità di analisi delle misure fiscali ex ante che inglobi gli effetti comparati anche a livello internazionale. Buongiorno anzitutto. Sì, quello che dice mi sembra abbastanza grave, perché non mancano da noi, come dire, le istituzioni di ricerca, a partire dalla Banca d'Italia, a Nomisma per gli aspetti industriali. Adesso non faccio pubblicità ad altri, però voglio dire, non ci mancano i posti, i luoghi dove si può calcolare l'impatto delle misure fiscali sull'industria. E da quello che dice, io non ho ascoltato tutta la prima parte della trasmissione, ma mi sembra di capire che forse questo è un caso piccolo o grande di populismo governativo, nel senso che forse qui si è appunto cercato di lisciare un po' il pelo a certe questioni che riguardano la redistribuzione, il colpire alcune categorie sociali, senza appunto poi fare i conti invece con quello che c'è veramente dietro, perché insomma possiamo essere d'accordo sul fatto che chi ha di più deve pagare di più. Il problema è che se si va a toccare poi un'industria, un settore industriale, si colpisce l'obiettivo sbagliato. E oltretutto hanno fatto anche buchi di bilancio aggiuntivi, perché ripeto, la stima era che incassavano dalle barche 155 milioni, ne sono arrivate 23, ecco. La stima era che con gli aeromobili incassavano 85 milioni, ne sono arrivati 1,8, e sulla tassa invece sulle automobili siamo al 45%, e dei tre comparti quello in cui l'incasso è al 45%. Ecco, mi sembra però molto grave, perché al governo abbiamo alcuni dei più importanti esperti di fiscalità italiani, quindi insomma mi sorprende che non si siano documentati, come si dice, che non abbiano chiesto, diciamo, degli studi di settore, cioè qualsiasi cosa, studi di settore intesi come naturalmente previsioni dell'impatto delle misure fiscali. Questo mi sembra grave, e poi riprendendo quel discorso che faceva lei, mi sembra che comunque non si colga un punto di fondo, cioè che questa crisi in cui ci troviamo da anni ormai è naturalmente parte di una questione di finanza internazionale, di spostamento, come dire, del centro della crisi finanziaria da una parte all'altra dell'oceano, ma è anche un pezzo di un lungo aggiustamento strutturale dell'industria mondiale che ha cambiato nel corso di almeno un decennio e mezzo, due decenni, il modo di fare industria a livello mondiale, nel senso che si è frammentato il processo industriale. Sono cose di cui si parla senz'altro anche nella sua trasmissione. Si è frammentato il processo industriale, ormai si delocalizzano competenze, non necessariamente fabbriche, c'è uno spostamento della domanda e anche della produzione in altre aree del mondo. Mi sembra che tutto questo la politica europea con le debite differenze, perché insomma i tedeschi sono stati ben più lungimiranti di noi, adesso ci lamentiamo perché in parte la cosa ci colpisce, vedi spread e oneri sull'industria della crisi finanziaria, ma loro insomma ci hanno pensato 10 anni fa a cosa sarebbe stato. Noi vuoi per un sistema politico che non riesce a guardare oltre, diciamo, l'anno, le emergenze, vuoi per il carattere nazionale, non so che dire, ma senz'altro non stiamo capendo ancora bene dove stiamo, in che contesto industriale mondiale ci troviamo, per cui se continuiamo a sottovalutare quello che ci aspetta e a inseguire le crisi che stanno scoppiando, rischiamo, credo, di appunto magari fare salvataggi ad hoc di una fabbrica piuttosto che l'altra, ma di non porci la domanda di cosa sarà la manifattura italiana da qui a 5 anni, non a 20. Sono completamente d'accordo. Alcuni ascoltatori dicono: ma caro Giannino, ti stai occupando di un tema che riguarda solo le tasse dei ricchi. No. Chiariamo, io ve lo sto ripetendo, vedete che chi reagisce così, ma in buona fede, io lo capisco, è la classica vittima della strategia di demagogia della comunicazione. evasione fiscale dei governi di diverso colore, ma dei guerri dei tecnici uguali, tale quale. Su questo sono tutti uguali, cioè non ho visto differenza. Vi fanno credere che queste misure, chi se ne occupa sta difendendo i ricchi, cioè i proprietari. Vi sbagliate, cioè, vi ho detto, dall'analisi che trovate nel numero domani di Capo Orni, dicono insieme al Sole a Roma e a Milano, troverete che i ricchi, i presunti ricchi, ovvero i ricchi, perché hanno le barche, se ne sono andati, questo non è il problema, li abbiamo consegnati ai paesi concorrenti, il Mediterraneo. Il problema è che ad andarci di mezzo è chi lavora nei porti turistici, credete che siano ricchi quelli che si sbattono la schiena dall'alba al tramonto per offrire acqua e servizi ai posti barca delle barche turistiche? No, non credo, no. Abbiamo un'idea di chi stiamo parlando, di lavoratori che si spaccano la schiena? Ecco, no, tanto per essere chiari di che cosa stiamo parlando. I 12.000 dipendenti buttati fuori dalle concessionarie dell'auto, chi credete che siano? Quelli che vanno in Aston Martin o quelli se cui non c'è l'acquirente dell'Aston Martin vanno per strada? Ma quando è che capirete che vi pigliano per il culo i politici che dicono che con le tasse dei ricchi aiutano voi che avete di meno? Finiamo per strada noi, invece, i ricchi se ne vanno altrove. Questo è il piccolo particolare che dovremmo capire quando si fa demagogia fiscale su questo, oltretutto su settori come quello della portualità turistica, che dovrebbe essere uno dei punti di forza della nostra attrattività. Noi dovremmo dire a tutti quelli del resto del Mediterraneo: venite qua perché vi conviene, perché i prezzi sono più bassi, perché le tariffe sono più convenienti, perché vi diamo migliori servizi, perché abbiamo migliore offerta alberghiera, ristorativa, eccetera eccetera. Non che abbiamo un cane da caccia sulle motovedette che appena vi avvicinate vi dice: quante volte figlio mio, quante volte figlio mio, quante volte figlio mio, tira fuori i documenti e fammi vedere se hai pagato. Questa modalità potrà sembrare utile a voi che dite: ah, lo Stato mi vendica. Lo Stato ve la sta mettendo nel fondo schiena, a voi che avete meno su questo. Apriamo tutti gli occhi, sentiamo come la pensa per esempio Francesco dalla provincia di Macerata. Salve, io confermo quello che sta succedendo sul settore nautico, perché in parte ci lavoro. L'esodo di massa verso la Croazia di gente che ha la barca, porti semivuoti, tutto qua. Per il resto è importante anche ricordare che esistono anche a livello europeo delle leggi che dovrebbero tutelare la concorrenza sul settore nautico anche dei concessionari auto, e che la GCOM purtroppo non fa osservare. Ah, quindi c'è anche un problema di autorità del settore su questo. Questo grazie della segnalazione, che ce ne occupiamo più avanti, qualche altro numero di Capo Orni. Sentiamo Davide da Milano. Davide. Sì, buongiorno Giannino. Volevo schierarmi un po' relativamente al fatto che questo momento, io lavoro nell'ambito automotive, la mia famiglia ha due concessionarie da ormai 30 anni e la situazione nell'ambito automotive è abbastanza drammatica. Vorrei sensibilizzare un po' tutti sul fatto che il tutto non sta toccando soltanto i ricchi, va bene, si sono già mossi, e da 3 anni che ormai assistiamo a una situazione in cui vengono persone e vengono clienti a cercare di venderci le loro macchine per dire: esatto, portatele all'estero, ma noi non ne vogliamo più sapere di essere fermati al semaforo, alla rotonda della strada statale per avere un controllo 4-5 volte, perché in 30 anni mi sono potuto permettere una macchina di media, non dico grossa, non stiamo parlando di vetture 5.000 o 6.000 di cilindrata, ma di media cilindrata, vetture pagate magari con il frutto di lavoro di tanti anni, e oggi abbiamo il problema di dover giustificare il perché ho lavorato per 30 anni e mi posso permettere una macchina da 30.000 euro. Le ricorda l'insistenza sistematica, mi perdoni, ma visto che qua il centrodestra poi dice, l'insistenza sistematica con cui Giulio Tremonti tirava fuori il numero di vetture di alta cilindrata italiana, io ogni volta gli ricordavo, siccome siamo amici, certo, però perdonami, tu c'hai le vetture pagate dal contribuente con la scorta rafforzata della finanza, non ti sembra di andare un po' fuori luogo dicendo questa roba? Ecco, io questo anche pretenderei poi di fronte a la facile demagogia su questo, facile demagogia, perché poi alla fine negli anni abbiamo ingigantito un problema che poi era il problema del nostro produttore nazionale, ma qui abbiamo colpito tutte le vendite in qualunque settore dicendo: se tu hai la possibilità di comprarti una macchina, vergognati perché io ti perseguito. Comunque l'ho interrotta, stava dicendo? Dottor Giannino, la cosa più grave è che ci siamo fottuti, tutto il nostro circolante ce lo stiamo fottendo. Il tema qual è? Che noi diamo da lavorare a 30 persone. Lavoriamo in ambito automotive con aziende abbastanza solide, abbiamo lavorato, abbiamo fatto. Ora ci ritroviamo in delle situazioni in cui va bene, i dati in RAI di vendita sono meno 20%, meno 25%, magari ci sono aziende carrozzate per superare questo momento, però se ci freghiamo anche il circolante di quello che abbiamo, tutti i nostri collaboratori che lavorano con noi, cosa fanno? Chi ripara queste macchine? Non si tratta soltanto di concessionari che vendono auto, ma anche da tutta la parte assistenza. Certo. Queste macchine non rientrano più in assistenza. Va bene, i dati di vendita sono diminuiti, ne venderemo meno, ma a un certo punto queste macchine dovranno essere assistite. Se ci liberiamo anche di queste macchine e le mandiamo all'estero, dove forse sono più furbi di noi e le prendono oggi certo. in saldo, e sono anche contenti, si ritrovano anche tutto un indotto di lavoratori che oggettivamente, se noi abbiamo le assistenze vuote, come facciamo a mantenerle? Fortunatamente non tutte le aziende sono così, le nostre aziende vanno discretamente bene, ma perché negli anni si è strutturato il business in una determinata maniera, ma oggi ci sono nel nostro mondo, nell'ambito automotive, aziende che soffrono soprattutto anche dalla parte assistenza, perché non c'è più circolante. Sì. Davide, io non posso che... L'impiego è drammatico, Giannino, Non drammatico. Posso che dare ragione nel movimento che ho contribuito a fondare, il cui programma sta www.fermareildeclino.it, stanno aderendo migliaia di piccole imprese che avevano formato un coordinamento, il cosiddetto partito delle aziende, molti di loro sono diversi titolari di concessionari, in particolare nell'area del Veneto, intorno a Verona, nella provincia di Vicenza e così via, e alcuni di loro sono così disperati perché hanno un calo del 50% del loro fatturato rispetto all'anno passato, che era un anno già infelice, stiamo faticando a convincerli a non bloccare la 4, l'autostrada, ma stiamo faticando moltissimo perché loro dicono: noi così buttiamo solo tutta la gente che abbiamo per strada dopo aver già dovuto diminuire del 25%. Questa è la realtà di un settore su cui la mannaia della famosa tassa sul superlusso ha aggravato i problemi, ma naturalmente voi eravate magari in buona fede, ascoltatori, contenti che finalmente lo Stato pensasse a chi aveva di più, e il risultato è che ha buttato per strada chi aveva di meno. E dopodiché oggi abbiamo fatto questa bella analisi, l'occasione, il numero di Cap Horn che va in distribuzione a Roma e Milano domani insieme al Sole 24 Ore, del bilancio disastroso, il bilancio reale delle famose tasse superlusso su barche, automobili, aeromobili. Lo Stato non solo non incassa, ma bellamente se ne fotte dei danni che fa nell'economia reale, dei settori in cui gente che lavora, che si guadagna onestamente il proprio reddito, non ricchi che sono i titolari delle barche, delle automobili, eccetera eccetera, gente che lavora finisce per strada aggravando le loro condizioni. Viva il fisco dello Stato stupido e ladro, ladro prima che stupido e stupido prima che ladro. Sentiamo come la pensa Marcello da Milano. Prego Marcello. Sì, pronto? Eccoci. Buongiorno Giannino. Senta, io sono un imprenditore che ha 5 anni investito direi diversi centinaia di migliaia di euro per arrivare a ottenere un brevetto internazionale su un prodotto destinato all'illuminazione pubblica in grado, e questo lo dimostrano gli impianti che abbiamo fatto come impianti pilota, che illumina meglio e risparmia in media più del 30% dell'energia consumata attualmente. Però sono un po' emozionato, mi scuso se prego. La voce è un po' tremante. Ma sono anche abbastanza arrabbiato perché con una recente spending review si è dato al Consip un ente, la piattaforma centralizzata per gli acquisti, insomma un baraccone più che un ente, un baraccone, e si è dato al Consip l'onere e l'onore di fornire i vari comuni italiani di queste dei prodotti. Di centralizzare gli acquisti, ecco, questo è stato il compito che gli è stato dato. Sì. Ecco. Bene, chiaramente il mio prodotto ha un prezzo diverso, chiaramente il mio prodotto rispetto a quello che c'è in Consip è completamente diverso, perché io illumino meglio, nel senso che meglio, ma costa di più in termini di risparmio energetico, comunque vale la pena, perché il risparmio che si produce con l'investimento iniziale un po' più elevato è un bilancio vantaggioso economico-finanziario. Naturalmente, sì, se il criterio di acquisizione, vado rapido per spiegare all'ascoltatore, è solo quello dell'ottimizzazione del prezzo, che non ingloba ancora una volta l'impatto economico di risparmio nel medio-lungo periodo, ecco che il suo prodotto finisce per essere discriminato. Allora, di fronte a questo, purtroppo, siamo sempre lì, misure economiche, o in questo caso determinanti di prezzo, assunte senza saper fare una valutazione di impatto di che cosa è davvero nel medio-lungo periodo la determinante conseguente. Allora, per effetto di questo, il suo prodotto viene spiazzato, purtroppo. Io non sono ormai abbastanza deciso a far sì che tutto, sia la produzione che tutto il resto, e non si parla di pochi pezzi, perché in Italia va all'estero? Sì, esatto, sono circa 13 milioni di punti luce, dei quali un 70-80% a luce gialla, SAP. Tenga presente che Marcello, io purtroppo il tempo è finito. Ha dato un altro esempio di quali sono le misure, le conseguenze, le misure assunte senza per determinare prima le cose. Mm.